it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione a cura della Coordinamenta Femminista e Lesbica. Volevamo ricordare che la Coordinamenta è antisessista, antirazzista e antifascista. E ciao a tutte, e siccome la Coordinamenta è antifascista, antisessista e antirazzista, vogliamo ricordare che è sempre a fianco del popolo palestinese che lotta per la sua libertà. A questo proposito ci è passata sotto gli occhi una notizia, diciamo che riguarda la Palestina, e in maniera traversa, però è molto importante per noi. Cioè un'attivista unica italiana al Gaza, che ha un blog, il blog di Oliva, si è vista bloccare la pagina Facebook. E perché? Perché aveva postato e comunicava notizie e immagini dei bambini uccisi, di quello che succedeva in Palestina. E infatti al telefono con l'ADN Kronos diceva 2 giorni fa: continuano gli attacchi, ho caricato le foto dei bambini sul mio sito e sulla pagina Facebook, ma sono stata bloccata dal social network. Allora, questo ci apre degli scenari su cui dovremmo riflettere moltissimo. Perché? Perché tutti i meccanismi di trasmissione che ci mettono in contatto con tutto il mondo sono anche però facilmente bloccabili. Cioè dall'oggi al domani possiamo trovarci senza nessun mezzo di comunicazione, possiamo venire oscurati da un momento all'altro. Quindi così dovremmo cominciare a pensare, secondo noi, a qualche sistema di comunicazione tutto nostro. Allora, tra le notizie che volevamo ricordare, è un appuntamento che in realtà c'è stato la settimana scorsa e che abbiamo seguito come coordinamenta, siamo state presenti, E mercoledì 14 c'è stato, infatti, vi ricorderete, ne abbiamo parlato nelle scorse trasmissioni, c'è stato il presidio di fronte al Ministero dell'Economia via 20 Settembre, organizzato dalle lavoratrici e lavoratori delle società in house. Ne abbiamo parlato appunto anche con alcune lavoratrici nelle scorse settimane, e il presidio è stato molto, molto partecipato. La partecipazione appunto numerosa ha fatto sì che venissero poi salissero insomma sopra al ministero alcuni lavoratori e lavoratrici, e volevamo insomma leggervi alcune parti del comunicato poi che è stato scritto a conclusione della manifestazione del 14. Oggi, mercoledì 14 novembre, si è svolto di fronte al Ministero dell'Economia un presidio in sciopero organizzato dall'Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di Roma delle società in-house della pubblica amministrazione. Il presidio è stato partecipato da oltre 300 lavoratori e lavoratrici ed ha ottenuto che una delegazione venisse ricevuta da rappresentanti dell'Ufficio Legislativo dell'Economia. Nel corso dell'incontro i rappresentanti del Ministero ci hanno comunicato che a tutt'oggi non sono ancora definitivi i tempi per l'emissione del DPCM previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della legge Spending Review, né altri provvedimenti legislativi connessi. I rappresentanti del Ministero hanno anche dichiarato la propria disponibilità a verificare la possibilità che si definisca un percorso di interlocuzione con i lavoratori e le lavoratrici dell'Assemblea prima dell'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 4 appunto della Spending Review. L'Assemblea, riunita in presidio oggi, appunto si tratta appunto di un comunicato scritto il 14 novembre, esprime un giudizio positivo sulla riuscita dell'iniziativa e dichiara che continuerà le mobilitazioni al fine di garantire la tutela dei posti e delle condizioni di lavoro e la continuità dei servizi. E questo appunto è una parte del comunicato delle lavoratrici e dei lavoratori delle società in house che continuano quindi il loro percorso di lotta. Oggi c'è stata una riunione via Passino 20, zona Carbatella, e la prossima riunione ci sarà giovedì della prossima settimana, sempre alle 18 in via Passino. Quindi invitiamo tutte e tutti a partecipare e a sostenere questo percorso auto-organizzato, e in particolare ci rivolgiamo a tutti e tutte coloro che lavorano in una società che fornisce servizi per la pubblica amministrazione. Li invitiamo quindi a partecipare alle prossime riunioni. I'll show him what he could be now. Just give me one night. Give us a room, close the door, leave us for a while. You won't be a boy no more, young but not a child. Allora è arrivata Noemi, ciao, ben arrivata e ben trovata, perché viene da un'esperienza di 2 giorni in Val di Susa, anzi 3 perché è tornata da Torino più tardi, e quindi ci fa piacere che ci racconti, cioè è andata in missione, più o meno, o in vacanza. Ora mi... ok. È stata una bellissima esperienza, è stata un'esperienza molto interessante, perché è stata convocata da quelle che sono le donne NOTAV, che si sono chiamate Donne in Movimento. Ovviamente è un movimento di donne trasversale, che appunto insomma è composto non solo da compagne, ma da tutte quelle donne che ovviamente vivono la valle e contestano ovviamente le opere per l'alta velocità. E quindi è stato un piacere poterle incontrare e poter partecipare alle loro iniziative. E diciamo che fondamentalmente le iniziative erano divise su 2 giornate, il 17 e 18 di novembre. E, il 17 si trattava di un'iniziativa di piazza in cui ovviamente ogni compagna poteva mettere il suo materiale, le compagne ovviamente della valle avevano preparato delle cose e anche noi abbiamo portato comunque il nostro materiale, la presentazione degli atti e varie altre cose che abbiamo prodotto ovviamente in questi anni. E è stato bello perché è stato un momento di incontro con il paese di Bussoleno e con tutte le realtà di compagne che alcune o quasi tutte insomma che hanno partecipato anche al convegno quest'estate con noi, altre non conosciute che però fanno parte appunto di delle stesse insomma realtà e situazioni a noi, che hanno partecipato con noi in questo convegno. E è stata un'esperienza molto importante riuscire a confrontarsi, a parlare con loro e, anche in una situazione in cui appunto il taglio, il target dell'iniziativa non era tanto quella di appunto fare delle azioni politiche o comunque, cioè, nel senso portare avanti un discorso esclusivamente tra compagne, ma riuscivamo ad avere una discussione che fosse l'inserimento del percorso femminista all'interno del percorso NOTAV. Non perché questo non sia stato già fatto in altre forme, in altri momenti, ma era un primo momento in cui loro ci richiedevano ovviamente una presenza per poter inserire in questo contesto delle tematiche un po' più legate al femminismo. Ovviamente il 25 sarà la giornata contro la violenza sulle donne e il 24 loro avevano una presentazione di un libro, ora mi perdoneranno che non ricordo il nome del libro e la compagna insomma che presentava il libro, però vi faremo sapere ovviamente. Però dopo questa iniziativa di piazza, con banchetti informativi, ci si è visti, perché era un'iniziativa mista, all'interno della sala consiliare di Bussoleno. Ed è stato molto importante perché si sono confrontate delle realtà come una ginecologa, compagna del Sant'Anna, il collettivo delle Medea, e una compagna della rete femminista Refe. E ovviamente le compagne, le donne NOTAV di Bussoleno. E devo dire che senza mettermi a fare il report di quello che è uscito fuori, ovviamente l'ambito di discussione verteva intorno a che cos'è la violenza e quindi il fatto che senza scendere ovviamente in discorsi sull'ecofemminismo, perché ovviamente non era quello il contesto in cui poter discutere di questo, perché insomma è un argomento molto più complesso, però c'era un parallelo molto forte di come la violenza ovviamente su quel territorio fosse comunque trasversale anche alla violenza che subivano poi le donne. Ovviamente essendoci una rappresentante tra virgolette istituzionale che poi insomma a quanto ho capito, a parte lavorare all'interno dell'ospedale, comunque una compagna, e ci ha posto proprio il problema sia di come si lavora all'interno di un centro antiviolenza, ma proprio come persona, come ci si rapporta a una situazione di violenza nel momento in cui tu sei la, tra virgolette, la donna di riferimento, e quindi tutta la battaglia nel far sì che all'interno di questo centro, dentro il Sant'Anna, non fossero presenti uomini, né medici, né infermieri in nessuna forma, per rendere comunque sempre più accogliente questo posto. E le donne, le compagne di Medea hanno posto insomma una serie di vari punti su quelle che sono le violenze, che poi sono quelle di cui abbiamo parlato anche al convegno, quindi insomma non voglio ripetermi su argomenti già tirati fuori. E devo dire che l'unica cosa che mi viene da raccontare, almeno di questa giornata, come conclusione, è stato molto bello e molto interessante la battuta di una donna del Notav incinta, perché che si riferiva a un articolo del Corriere della Sera di quest'estate, mi perdonerete se non mi ricordo la citazione della data, però stava su Io Donna, quindi suppongo di sabato, che metteva a confronto il fatto che fossero sparite le donne no tab, tanto carine e tanto dolci, che preparavano da mangiare, sostituite dalle romane e dalle napoletane, dato che la parte di coordinamento che è salita su era composta da romane e napoletane ed eravamo sedute vicino a questa donna. Lei ha fatto questo intervento che a me ha quasi commosso, dicendo: no, non è vero, io contesto quell'articolo, perché io sto qua e nonostante la mia condizione, che mi permette ovviamente di non contestare in azioni più forti il notav, perché sono incinta e quindi non mi posso mettere a buttare giù le reti, però comunque continuo a essere presente. E sono contenta che sono comunque presente quelle romane e quelle napoletane che continuano a cui continuano a dare la colpa della violenza e l'aggressività che pare che le donne non debbano avere. Quindi insomma questo è stato un momento molto importante. E poi la giornata di domenica fondamentalmente è stata fare una passeggiata da Chiomonte alla Clarea, dove c'è questo, dove stanno costruendo dall'anno scorso e stanno già trivellando, in cui in queste notti ci sono state comunque varie azioni, e abbiamo fatto una battitura sulla rete e abbiamo potuto vedere insomma qual è la condizione e come hanno lavorato. La cosa che ci ha colpito è vedere che praticamente insomma hanno costruito un cantiere che però insomma è una specie di fortino fondamentalmente fatto anche apposta per poter reprimere e appunto violentare sia il territorio che tutti coloro e tutte coloro che contestano il notav. The shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. Against us is the power of the gold. Against us is the racial hatred and the simple fact that we're poor. My father dear, tell my crime, the crime of love and brotherhood, and only silence is shame. With me I have my love, my innocence, the workers and the poor. Strong and hope is mine. Rebellion, revolution don't need dollars, they need this instead. Imagination, suffering, light and love and care for every human being. You never steal, you never kill, you are a part of hope and love. children of life, death is small. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Vittimizzazione. Il mito della mobilità sociale è uno dei tratti distintivi della società americana. Questa caratteristica si è negli ultimi anni accentuata per via della persuasione che la struttura sociale del paese sia prodotta da un sistema meritocratico che sa ricompensare l'immaginazione ed il lavoro. Convinzione che continua a diffondersi in coincidenza con l'introduzione della cosiddetta discriminazione positiva. Quote privilegiate per le minoranze, quote rosa per le donne, le une e le altre ridotte ad associazione di categoria. Discriminazione positiva che ha nelle università il suo punto di forza. In realtà la situazione non fa altro che peggiorare. Le cifre per i neri e le nere americani e americane, in rapporto a tutti gli standard della qualità della vita, sono in netto regresso, e così le condizioni di vita della minoranza ispanica e della popolazione tutta. A conferma che l'impianto delle discriminazioni positive, lungi dall'affrontare il tema dell'uguaglianza, ha assunto un ruolo conservatore di legittimazione dell'ordine costituito. E questo è il senso della vittimizzazione di ceti, ambienti, generi oppressi, che riducendo tutto ad una dimensione binaria fra soggetti, si risolve in una depoliticizzazione del confronto con l'annullamento delle contrapposizioni ideologiche di classe, di genere, di razza e che riduce l'ingiustizia sociale tutta nel quadro delle rivendicazioni vittimistiche enucleate dal dibattito e dalla politica. E questo riguarda in particolare le donne, di cui in questo modo si tenta di svalutare le legittime rivendicazioni e la lotta per la liberazione. La vittimizzazione serve a rimuovere le analisi, non affronta la legittimità di una causa, come quella delle donne, e a poco questo tipo di indignazione occupa tutto lo spazio, rimuovendo nell'immaginario le cause della situazione di dominio e di oppressione. Così facendo non sono mai il dominio e l'oppressione l'oggetto del discutere e della lotta, ma la preoccupazione scivola nelle manifestazioni verbali di buonismo e di partecipazione. Le stesse figure semantiche non sono al servizio della liberazione, ma la sostituiscono, per cui la lettura della storia, secondo tutte e tutti costoro, è diversa soltanto se si ha l'accortezza di non scrivere più Pipino il breve, ma Pipino diversamente alto. Per cui paradossalmente la sinistra socialdemocratica e i suoi coristi e coriste, ammalati e ammalate di un politicamente corretto fine a se stesso, che da manifestazione esteriore diventa sostanza, sono inclini a censurare e a depurare e a scegliere per noi, rimuovendo due categorie fondamentali della cultura, la contaminazione e il carattere espansivo del sapere. È il ritorno alla grande del puritanesimo protestante, riabilitato dal neoliberismo. La soluzione non sarebbe più nelle lotte, queste vengono rimosse perché i problemi non sarebbero di natura politica e perciò delle lotte dovremmo e potremmo fare a meno. Però, guarda caso, quello che viene negato agli oppressi e alle oppresse, la borghesia lo riserva solo a sé. Riserva solo a sé il fare politico e la lotta di classe. Noi che non siamo omologate, non abbiamo nessuna intenzione di metterci al servizio di questa società, mettiamo al centro del nostro impegno percorsi di liberazione che passano necessariamente attraverso l'autonomia e l'auto-organizzazione. Ciao! Parlarvi di alcuni appuntamenti che abbiamo insomma in programma e alcuni invece che già abbiamo fatto. Sabato scorso infatti abbiamo presentato gli atti dell'incontro nazionale separato che avevamo organizzato a giugno, il 2 e il 3 giugno. E li abbiamo stampati, è venuto un opuscoletto molto carino e ci sono appunto tutti gli atti dei collettivi femministi che hanno partecipato all'incontro. Anzi, se volete riceverne una copia, scriveteci sulla posta della coordinamenta @autistiche.org e ve li spediamo. E appunto sabato abbiamo fatto questa prima presentazione allo spazio sociale al Quadraro, al Nido di Vespe. È stata una presentazione molto bella, intanto una bella discussione. Ci siamo soffermate soprattutto su alcuni dei contributi delle compagne, sul linguaggio, sull'uso del linguaggio in questa società, poi anche sul lavoro di cura e sul senso di colpa che... Sì, infatti scateniamo tempeste, che praticamente adesso ve lo diciamo, perché l'altra volta abbiamo parlato di scateniamo tempeste e in effetti ci hanno detto, non avete detto che cos'è scateniamo tempeste. Scateniamo tempeste è un blog femminista, tant'è vero se andate su scateniamotempeste.wordpress.com lo trovate, che è di compagne di Ro, che sta vicino a Milano. E in particolare Elena, una di queste compagne, ha affrontato il problema del lavoro di cura partendo dal senso di colpa, per cui secondo lei, e comunque noi lo condividiamo, in effetti è una bella analisi, il lavoro di cura si basa sul ricatto che noi abbiamo introiettato secondo meccanismi che poi ci hanno spiegato le Dumbles nel contributo sul linguaggio, fin da piccolissime, sul ricatto che poi qui, specialmente nel nostro contesto sociale, viaggia su due binari: da una parte il senso di colpa di tipo cattolico che abbiamo introiettato, e dall'altra il senso di colpa di tipo socialdemocratico, per cui noi siamo responsabili di tutto quello che succede nel mondo, cioè se inquiniamo, se è colpa nostra perché sporchiamo la città, se la città è inquinata è colpa nostra che usiamo troppo la macchina, e via dicendo. Sì, come appunto se la responsabilità fosse individuale e non della società e del sistema in cui viviamo. Naturalmente ci saranno poi altre presentazioni e invitiamo tutti e tutte a scriverci se hanno la voglia di confrontarsi, di organizzare un dibattito, insomma noi siamo ben disposte. Il nostro percorso è separato, le nostre analisi sono sempre fatte in ambito separato perché noi crediamo molto nel separatismo, però crediamo anche che sia necessario portare all'esterno le conclusioni che abbiamo tratto e confrontarci anche in ambiti misti. Sì, anche perché molte di noi fanno anche parte di percorsi anche misti e quindi ci piace l'idea poi di riportare anche ai compagni quelle che sono le nostre analisi, per fare in modo che sia poi un percorso comune di liberazione. Perché il nemico si renda conto dei meccanismi che anche lui ha introiettato. E quindi all'interno della presentazione degli atti dell'incontro di giugno abbiamo lanciato un altro appuntamento che secondo noi è veramente molto importante, ed è sempre un incontro nazionale ed è sempre separato sulla memoria collettiva e memoria femminista. ed è previsto per sabato 15 dicembre di quest'anno, quindi il prossimo 15 dicembre, sempre nello spazio sociale occupato dell'ex 51, che è diventato praticamente lo spazio dei nostri convegni. A proposito, volevo dirvi chiarirvi perché, per esempio, abbiamo scelto il Quadraro per la presentazione degli atti, il Nido di Vespe. Non è casuale, perché nella zona del Quadraro sono accaduti diversi atti di violenza contro le donne, compreso quella alla caserma dei carabinieri, in cui è stata stuprata una ragazza da 3 carabinieri e un vigile urbano, e poi sono accaduti anche altri atti, per cui l'abbiamo scelto con questo spirito. Sì, anche perché poi proprio lì al Nido di Vespe comunque ci stanno delle compagne che hanno fatto degli incontri, delle assemblee pubbliche sulla violenza, e che quindi avevano il desiderio anche di confrontarsi. Allora, un attimo, volevamo raccontare quello, come è nato il desiderio di questo incontro nazionale Memoria Collettiva, Memoria Femminista di dicembre. Quando ci siamo incontrate a giugno con tanti collettivi femministi, ci siamo resi conto che la riappropriazione del patrimonio che abbiamo ricevuto in eredità dal pensiero e dall'azione femminista del passato per noi era molto importante, che era necessario mettere a valore l'esperienza accumulata in tanti anni di lotte, farci noi stesse luogo di trasmissione di questa esperienza e riscoprire soprattutto la valenza rivoluzionaria del percorso femminista. Questo perché? Perché in effetti il neoliberismo, in maniera particolarmente forte, sta attuando da anni una strategia di cesura con tutte le esperienze politiche di lotta del passato. Praticamente ha tagliato il filo della trasmissione della memoria e si presenta come società naturale, come unica esperienza sociale e politica possibile. Allora, abbiamo deciso di dividere la giornata di sabato in due parti. Il sabato mattina praticamente è incentrato sulla trasmissione della memoria e ci saranno tutta una serie di collettivi e di singole che faranno degli interventi che riguardano proprio degli ambiti specifici a loro scelta. Alcune hanno scelto per esempio il tema della violenza, nel senso il femminismo viene presentato come non violento, e mentre è una trasmissione della memoria che è falsificata. Altre, per esempio la falsificazione patriarcale della stessa esperienza, altre ancora hanno incentrato sul self-help e quindi su tutta l'esperienza degli anni 70 di conoscenza del proprio corpo. Comunque la mattina è incentrata sulla trasmissione della memoria. Invece il pomeriggio, poi pranzeremo tutti insieme, invece il pomeriggio sarà incentrato su generazioni femministe a confronto. Praticamente le ragazze dell'ultima generazione, quindi le ragazze dei licei e delle scuole superiori di Roma e dintorni, Alcune ragazze, insomma, dei gruppi di ragazze si confronteranno con le femministe che sono lì all'incontro, che in effetti rappresentano tre generazioni di femministe, perché ci sono le ragazze giovani, appunto, quelle che hanno 35 anni più o meno, e ci sono quelle della generazione che addirittura viene dagli anni 70. E quindi le ragazze faranno tutta una serie di domande alle generazioni precedenti, e verrà fuori un incontro, un confronto tra generazioni. I say I'll move the mountains, and I'll move the mountains, if he wants them out of the way. Crazy calls me, sure I'm crazy, crazy in love, I'd say. I say I'll go through fire, and I'll go through fire, as he wants it, so it will be. Crazy. Per, appunto, per tutte le informazioni riguardo a questo incontro potete trovarle sul nostro blog, che è coordinamenta.noblogs.org in coro. With a smile, the difficult I'll do right now. The impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Allora, in chiusura vi diamo due mini report, un mini report e un appuntamento. Allora, questo lunedì 19 novembre c'è stata all'Aquila la seconda udienza del processo contro il militare stupratore Francesco Tuccia. Questo che vi leggiamo è un resoconto che ha fatto il Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario, in particolare Luigia, che è stata all'Aquila. Che ci dice che fuori dal tribunale ci sono state le donne, il presidio di donne dell'Aquila, di Tivoli, di Roma, e che hanno sostenuto chiaramente la ragazza che ha subito violenza. Che l'udienza è stata molto lunga, perché è durata anche per tutto il pomeriggio, e perché sono stati ascoltati anche gli amici di Tuccia, un suo commilitone aquilano, inizialmente indagato con Tuccia insieme a un altro commilitone e a una sua amica. Praticamente addirittura sembra, non andiamo errate, che addirittura sia stato incriminato uno dei due militari che erano con Tuccia quella sera, perché verranno acquisite altre prove, e quindi in questo modo si spera di ottenere un quadro completo di quello che è successo. Comunque la prossima udienza sarà il 10 gennaio. Up early with the sun to ride the bus while everyone is yawning and the day is young in morning Morgantown. l'ultimo appuntamento che volevamo ricordarvi è per venerdì 23 novembre alle ore 8:30 la mattina. E, l'appuntamento è di fronte alla sede del 22 a Via dei Volsci 22 a San Lorenzo, la sede femminista e lesbica di Via dei Volsci, dove ci sarà l'ennesimo tentativo di accesso da parte dell'ufficiale giudiziario, quindi venite tutte. Noi pensiamo comunque sempre e siamo super convinte che gli spazi liberati, occupati, separati di femministe e di lesbiche debbano essere difesi a spada tratta. Ce ne sono pochi, teniamoceli cari. In morning, morning town, morning, morning town, buy your dreams a dollar down. E siamo in chiusura, vi aspettiamo mercoledì prossimo e un saluto particolare a tutte e a tutti quelli privati della loro libertà. Se debito non fai ti toccherà morire, con che si vacilla, vacillerà il governo, ma non vacilla mai la leggera nell'inverno. Fa debito, non ti lascia patire, se debito non fai ti toccherà morire. Fa debito, non ti lascia patire, se debito non fai ti toccherà morire. A chi lavora una sardina, a chi non lavora una gallina, e col promettere poi e rimandare ci hanno insegnato a star senza mangiare. Coi nostri figli si vive d'acqua fresca e di sbadigli. E alla leggera che poi importa, la piglia, la scorta e via la sera. Fa porta leggera, fa porta in su e in giù, verrà la primavera, verrà la primavera, fa porta leggera, fa porta in su e in giù, verrà la primavera e canterai cucù. E alla leggera che foglie ne importa, la piglia, la porta e via la se ne va. Fa forza leggera, fa forza leggera, fa forza che mai più verrà la primavera, verrà la primavera. Fa forza leggera, fa forza che mai più verrà la primavera e canterai cucù. E tutti i tacconai, la leggera giù a tremare e a tirare il campanello. E alla leggera che poi gliene importa, la figlia la porta e via la seva. Un soldo di cicca in tasca, un pezzo di pane in tre, e la leggera, un soldo di cicca in tasca, un pezzo di pane in tre, e la leggera alla marciapiede. Non permette che la leggera la vada a lavorare, la leggerò. Il lunedì la legge non permette che la leggera la vada a lavorare, il martedì è giorno di mercato, non m'ha lavorato, non voglio lavorare, io la lillerò. Il martedì è giorno di mercato, non m'ha lavorato, non voglio lavorare. Il mercoledì io vado sul lavoro, piglio la cazzola, mi metto a lavorare, io la lillerò. Piglio la cazzola, mi asca giù il martello, proprio per quello non voglio lavorare. Il giovedì poi è il giorno dei santi, noi tutti quanti non si vuole lavorare, di rullalillero. Il giovedì poi è il giorno dei santi, noi tutti quanti non si vuole lavorare. Il venerdì poi è morto Gesù Cristo, non l'ho mai visto, non voglio lavorare, di rullalillero. Il venerdì poi è morto Gesù Cristo, non l'ho mai visto, non voglio lavorare. Il sabato poi io vado in sul cantone, aspetto il padrone che mi venga a pagare, di rullalillero. Il sabato poi io vado in su un cantone, aspetto il padrone che mi venga a pagare. E alla leggera che poi gliene importa, manda su Ostia la fabbrica il padron, di rullalillero. E alla leggera che poi gliene importa, manda su Ostia la fabbrica il padron. La forza leggera che canta il cucù, un bacio alla mamma, n'Italia mai più. Il secolo presente qui ci lascia, il 1900 s'avvicina, la fame ci han dipinto sulla faccia, e per guarirlo non c'è la medicina. E colui che c'ha che fa, lo vogliamo scampigliare, che sì con questa America, che sì con questa America. E colui che c'ha che fa, lo vogliamo scampigliare, che sì con questa America e avrai lavoro qua. E colui che c'ha che fa, lo vogliamo scampigliare, che sì con questa America, che sì con questa America. E colui che c'ha che fa, lo vogliamo scampigliare, che sì con questa America e avrai lavoro qua.